Bene, io direi che possiamo piano piano iniziare il nostro appuntamento settimanale dell'incontro con l'autore e con l'autrice. Questa sera ci fa particolare piacere avere con noi Francesca Bettoni, che presenta un libro dal titolo veramente molto curioso. L'ho divorato in una serata, devo dire, perché non riesce a lasciare il libro, per forza a leggerlo fino alla fine. La prossima volta rinasco papera, quindi è come vedete c'è anche il gadget, che è molto indicativo. Francesca è una persona molto frizzante, creativa, non a caso ha studiato appunto a Siena lettere moderne con indirizzo dedicato al cinema, e soprattutto la sua vita professionale, come molti di voi sapranno, si è dedicata e impostata su questo ambiente molto faticoso, difficile, che però non l'ha fermata, ed è andata anche in America, dove ha frequentato un prestigioso master, ed è una persona di sicuro talento. Le auguriamo tanta fortuna. È con noi questa sera Arianna Vetter, anche lei è autrice di libri, era stata ospite nostra un anno fa, in inverno, era freddo, mi ricordo. E Mandami un messaggio era il titolo del suo romanzo. Quindi abbiamo due donne questa sera di talento che raccontano in termini anche direi autobiografici, partendo dalla propria esperienza, dal proprio vissuto, ma in maniera molto, diciamo, dal punto di vista narrativo molto bello, piacevole, si legge sempre con grande interesse, sia quello che scrive Arianna, sia quello che ho scoperto leggendo appunto il libro di Francesca. La biblioteca favorisce, promuove queste serate, queste iniziative, proprio perché fanno parte di un programma di promozione della lettura. Siamo anche molto contenti quando abbiamo degli autori e delle autrici locali da far conoscere al nostro pubblico, e i nostri appuntamenti sono praticamente settimanali. Tant'è vero che i prossimi sono lunedì 14, la sera alle 18, sempre in questa sala, con Maurizio Ferrandi, che presenterà il suo nuovo libro di indagine però storica, Pensare l'Alto Adige, sarà con lui Gabriele Di Luca. Mentre martedì 15, nella nostra biblioteca al piano di sotto, che vi invito a visitare, alle ore 17 sarà con noi di nuovo Giacomo Sartore, autore trentino ma anche di adozione bolzanina, che ama raccontare con indagine storica anche lui il nostro Alto Adige, anche nei suoi lati più segreti, più oscuri, ma sempre con una grande indagine storica a monte delle sue narrazioni. Non mi dilungo oltre, ricordo che giovedì 17 noi avremo un grande evento qua al Trevi, che coinvolge tutta la struttura, tutti i servizi, dalla biblioteca provinciale al centro audiovisivi e via discorrendo, l'ufficio cultura e il centro multilingue, perché facciamo un open day, quindi dalla mattina alle 10 alla sera alle 22 qui succede di tutto. Abbiamo conferenze di carattere storico letterario, avremo esperti di storia dell'arte, archeologi, avremo una conferenza sulla via Claudia Augusta, quindi è tutto un festival che va dalle 10 della mattina alle 22. Se avete interesse e soprattutto la possibilità anche di passare, di curiosare, siamo qui tutta la giornata con le nostre iniziative. Adesso vi lascio in compagnia delle nostre due gentili ospiti, che ringrazio ancora, e buona serata a tutti. Grazie. Un po' ovattata. Sentite tutti? Ecco, dai, così mi lancio. Allora, buonasera a tutti, oggi presentiamo appunto il libro di Francesca Bettoni, che si intitola La prossima volta rinasco papera, e che parla della vita di Roberta, la protagonista, che affronta una serie di avventure a sapore tragicomico nella ricerca del lavoro dei suoi sogni. E quindi questa protagonista affronta un viaggio in quello che è il magico, mettiamolo tra virgolette, mondo del lavoro post laurea, e questo viaggio si dipana su due piani. Il primo è quello della frustrazione, fondamentalmente perché purtroppo lei si ritrova a scontrarsi con quella che è la realtà italiana, e quindi i raccomandati che ti soffiano il posto per cui tu invece saresti portata, l'invio dei curriculum infinito a cui non ricevi assolutamente risposta, e di conseguenza la frustrazione che ne deriva. Sull'altro piano invece troviamo il modo di reagire che ha la protagonista di queste vicende, e quindi il suo viaggio anche interiore. Lei riesce con grande determinazione e soprattutto grande ironia a reagire a tutto questo, a non mollare mai, come si suol dire, a continuare a insistere, a credere nei propri sogni. Ecco, viviamo in un paese che è il nostro, dove i sogni sembra che bisogna tenersi nel cassetto quando si prende una laurea, perché è difficile tirarli fuori. Però diciamo che Roberta fa di tutto per aprire questo cassetto e realizzarli. Personalmente, visto che siamo qui in Alto Adige, posso dire, anche basandomi sulla mia esperienza, che siamo abbastanza fortunati, nel senso che, per quel che mi riguarda, quando io ho terminato gli studi, visto che abbiamo il filtro potente del bilinguismo che è necessario per lavorare nella nostra zona, a me è capitato addirittura l'imbarazzo della scelta nel decidere che lavoro fare, più che altro nel mio campo, che è quello amministrativo e commerciale. Quindi non ho idea nello specifico di cosa sia la difficoltà di ritrovarsi magari dei mesi ad aspettare una risposta da qualcuno, a rimanere a casa senza fare nessun lavoro, oppure a farlo magari anche per tante ore e non essere nemmeno pagata, o essere pagata comunque pochissimo. Quindi ho ammirato molto la sua capacità di narrare questi fatti, queste situazioni, perché anche chi non le ha vissute può comprenderle, e invece oggigiorno purtroppo le vivono sempre più persone, laureati, che siano giovani o meno giovani, purtroppo è quello che succede. Quindi la cosa principale di questo libro, visto anche il titolo appunto ironico, è l'ironia che lo caratterizza, cioè che è il mezzo attraverso il quale la protagonista riesce a superare queste difficoltà, e poi, essendo scritto in forma di diario, si entra subito in empatia con quello che vive la protagonista Roberta, che tra l'altro racconta ogni dettaglio senza risparmiarsi, in modo molto reale, molto, molto diretto, molto vero, per cui si entra immediatamente a partecipare con lei delle sue avventure. E come diceva anche Valeria, il libro è veramente scorrevole, avvincente, perché quando lo inizi vuoi assolutamente sapere cosa succede, come va a finire, vuoi capire lei fin dove riesce a spingersi, i protagonisti che le stanno intorno fin dove si spingono, purtroppo anche in negativo, perché quello che vive insomma non è sicuramente piacevole, ma grazie alla sua forza di volontà diciamo che Roberta impara a nuotare in questo mare del sistema Italia, della ricerca del lavoro che fa acqua effettivamente da tutte le parti. Quindi è un libro divertente da leggere, che è la cosa più bella, è un libro coinvolgente, ma è anche utile a tutte le persone che vogliono realizzare qualcosa per cui sanno di avere talento, vogliono provarci, non si abbattono, quindi il messaggio che dà è molto incoraggiante, e sinceramente, visti i tempi, non è poco. Quindi io passerei anche a farti delle domande, perché la cosa, diciamo, principale che viene da chiederti è: perché hai intitolato il libro La prossima volta rinasco papera? Allora, intanto io chiedo veramente scusa per la mia voce, perché io so che attraverso il microfono è qualcosa di terribile, quindi chiedo scusa, non è una cosa che amo fare, però effettivamente in questa sala non si sente bene se non si usa il microfono. Per rispondere alla tua domanda, ci ho pensato, perché ho dovuto ricordarmi come mai ho iniziato a scrivere un libro e poi intitolarlo così, ed è stato in un giorno in cui io camminavo per il Talvera, immersa in questi pensieri un po' forse anche negativi riguardo insomma in quel momento proprio la mia personale precarietà lavorativa, mi sono fermata a guardare, mi ricordo, un gruppo di papere che stava veramente attraversando in fila indiana la ciclabile per andare dal Talvera, cioè dal torrente al laghetto che c'è proprio nelle passeggiate, e io le ho guardate, erano buffissime, perché quando le papere camminano sono ridicole, mentre invece appunto quando nuotano sono eccezionali, e non so perché ho pensato tra me e me, ma guarda, forse sarebbe meglio rinascere papera, che almeno la vita è meno complicata di quella che sto vivendo. E da lì io, che mi reputo una scrittrice, nel senso che tutto quello che vivo lo appunto comunque in un taccuino, idee, cose, insomma, me le annoto perché possono sempre diventare spunto per qualche cosa, per un film o per un libro. Mi sono appuntata questa cosa, la prossima volta rinasco papera, l'ho lasciata lì per un po', e poi il giorno che ho iniziato effettivamente a creare quello che era il libro, mi è venuto naturale intitolarlo così. È assurdo, però visto che parliamo di ironia, di una situazione così vera, ma comunque a volte anche incredibile, sono andata diretta su questa cosa, quindi ecco il perché. Perfetto. E in effetti, ricollegandomi a quello che stai dicendo, molte persone che vivono esperienze come quelle narrate nel libro, quindi frustranti, spesso non hanno nemmeno voglia di parlarne. Invece a te cosa ha spinto a voler raccontare queste esperienze, e se c'è anche qualcosa di autobiografico nella ricerca che hai fatto? Allora, il libro è per la maggior parte autobiografico, perché comunque si parte sempre dalle proprie esperienze quando si scrive qualche cosa, e anche dalle proprie sensazioni a volte, quindi sicuramente io mi sono ispirata molto a quello che è successo a me. Dopodiché, quando ho iniziato comunque a collezionare, a raccogliere idee per i capitoli, cioè a dare una forma a un libro che non fosse solo un semplice sfogo reale come può essere un diario, ho iniziato a raccogliere comunque esperienze anche di amici, di conoscenti, tutto quello che sentivo, a volte anche da pezzi di giornale. Quello che leggevo lo raccoglievo e poi lo mettevo insomma in forma di quella che si chiama fiction, cioè, o in questo caso di opera letteraria, per creare un personaggio, che in questo caso Roberta, che fosse generale, cioè che non fosse solo qualcosa che si potesse riconoscere se per caso fai cinema o lavori in questo campo come faccio io, però che fosse per tutte le persone precarie che potessero riconoscersi insomma in questo personaggio. L'ho scritto perché sono una scrittrice, cioè il mio lavoro, almeno le mie intenzioni, sarebbero quelle di scrivere film o serie TV, quindi per il cinema. Ho sempre studiato comunque scrittura, mi sono specializzata in questo, che può riguardare anche traduzioni o riscritture di sceneggiature, quindi in qualche modo mi viene più facile metterlo in scrittura che non raccontarlo. Attraverso la scrittura, come dico appunto, si generalizza un pochino, non è solo un pensiero, un'idea o un'esperienza personale, può diventare qualche cosa in cui la gente si riconosce. Io ragiono in un certo senso quasi naturalmente, semplicemente così, per cui mi è venuto facile appunto buttare giù poi l'idea per un libro. Certo. Come potremmo dire, parafrasando il titolo di un famoso film, l'Italia non è un paese per laureati, vista la situazione. Quindi tu che consiglio ti sentiresti di dare a chi ha fatto questo percorso di studi e sta cercando il lavoro dei propri sogni e incontra tutta una serie di difficoltà? Ma a costo di sembrare ingenuo, io dico di andare avanti, perché lo so, io ho scelto, lo dico sempre, forse uno dei mestieri più difficili, meno anche facili, dove comunque può prevalere il talento magari su quelle che sono, e purtroppo sono vere e presenti, le raccomandazioni o tante altre cose, insomma, che di persone che lavorano non per meriti ma per altri motivi. Però secondo me, se c'è una passione, se c'è qualcosa che ci piace, che secondo me sappiamo anche fare bene, magari siamo certi di saper fare bene, io non rinuncerei a un sogno o a un obiettivo perché ci sono delle difficoltà, se non è come rinunciare sempre. Bisogna comunque provare, crederci, andare avanti e lasciare solo se fosse veramente strettamente necessario. Ma perché no? Si può continuare, perché secondo me prima o poi comunque la bravura e il talento prevarranno su tutto il resto. Almeno voglio continuare a credere così. A costo di sembrare ingenua, però è qualcosa che non è molto importante, altrimenti perdiamo ogni speranza. Del resto il proverbio dice che la fortuna aiuta gli audaci, quindi hai ragione. E la speranza è l'ultima a morire, quindi esatto. Anche questo. E quindi, visto che qui ci sono dei possibili lettori del tuo libro, che chiaramente invitiamo a leggere assolutamente, che cosa auguri a loro nella Intanto lettura del libro? Di ridere. O quantomeno di sorridere. Io sono una grande fan di Daniel Pennac, e Pennac insomma è uno degli autori ironici più importanti, influenti e bravi anche che ci sono in circolazione. Lui dice sempre: una risata ci salverà, e io lo credo fermamente. Quindi quello che spero è che la gente possa, non dico ridere, ma sorridere di una situazione che in realtà è molto vera, attuale e anche abbastanza seria in Italia, che è il precariato. Però secondo me solamente attraverso imbarazzo, l'ironia e la risata, riusciamo in qualche modo anche a superarlo e quantomeno andare avanti. E quello che mi auguro, se ci sono persone che hanno, o persone giovani o persone che magari hanno figli, che questa cosa possa anche aiutare a dire, vabbè, non sono l'unica. Perché l'obiettivo è, non dico che si trova una speranza nell'andare avanti, perché insomma è un libro che racconta comunque delle vicissitudini alla fine anche negative, anche se poi sotto l'ironia, però è l'idea che non siamo soli, cioè io non sono l'unica ad essere in questa situazione, così come altre persone possono capire che effettivamente è qualcosa che riguarda molti di noi in Italia, purtroppo, però almeno ridiamoci su. Bravissima, io infatti l'ho letto ed è assolutamente molto divertente e incoraggiante soprattutto. Adesso che abbiamo illustrato, senza svelarvi troppo, il contenuto, se qualcuno di voi vuole fare qualche domanda, siamo ben felici di rispondere, soprattutto l'autrice è felice di rispondere. No. Ha trovato un po' la mano. Hai visto un futuro di sceneggiatura? Perché mi sembra che il tema si sposi molto bene con il cinema italiano. Sì, sì, sarebbe già pronto un concept per una serie televisiva, cioè il concept è un soggetto, per chi non lo sapesse, quindi dal libro distinto io ho tratto l'idea per quella che potrebbe essere una serie televisiva, che in realtà partirebbe dal libro stesso, ma sarebbe una sua evoluzione, quindi se qualcuno leggerà il libro e se mai ci fosse la possibilità di fare questa serie, non si tratterebbe della stessa cosa, sarebbe di qualcosa di diverso, che però comunque racconta lo stesso argomento. Ovvio, è stata la prima cosa che ho creato dopo. Perché serie e non film? Perché secondo me, questo personale parere, questo argomento può essere più adatto a una serialità, cioè qualcosa di lungo che comunque può anche andare di pari passo con quello che succede realmente in Italia. Ovvio che si può anche trasformare in un film se ci fosse l'interesse da parte di un produttore, però diciamo che quello che è la mia prima idea, l'istinto, mi è venuto di pensarla come qualcosa che appunto sia che vada avanti per più tempo che non nelle ore di un lungometraggio. Sì. Qualcun altro che ha il coraggio di alzare la mano? È tutto. Un'opera teatrale, dico. Perché è difficile fare un'opera teatrale su un soggetto così? Io penso per immagini, e il teatro, per quanto molti pensano che sia simile al cinema, è estremamente diverso. C'è un diverso modo di creare proprio l'opera, perché il cinema lavora con una macchina da presa, con immagini, con un montaggio. Il teatro è un palco singolo dove gli attori, anche se sono attori di teatro e cinema al suo tempo, c'è un diverso modo di recitare. Io ho sempre lavorato in un ambiente cinema e film, quindi non la vedo ancora come una possibile opera teatrale. Dovrei avere in questo caso l'aiuto di qualcuno che è più esperto di me e che scrive magari opere teatrali. È tutto possibile, non è niente impossibile, però per me è, che penso per immagine, è venuto naturale fare insomma, creare l'idea per una serie che non per un'opera teatrale. Lo sai che non rinuncio mai. Perché in fondo si tratta di un soggetto singolo che incontra persone poche che deludono, per cui interessa di sicuro. Sai che io prendo sempre, appunterò anche questo, lo sai. Tra l'altro è interessante perché penso che qui siamo tutti piuttosto appassionati di libri, anche di cinema, insomma Bolzano dal punto di vista culturale è sicuramente una città piuttosto attiva, però quello che tu narri si svolge anche in questo campo molto bello dei set cinematografici, delle sceneggiature, che è una cosa che magari non sempre noi conosciamo così bene, anche proprio dal punto di vista del funzionamento, di quello che c'è dietro, quindi è un libro sì che parla della ricerca del lavoro, di quello che succede, dei curriculum, dei raccomandati, però in un ambiente che comunque è anche molto molto interessante, molto particolare, no? Io ripeto, l'ho trovato veramente molto molto bello, non solo perché mi ha divertito, ma perché anche se magari io faccio tutt'altro tipo di lavoro, posso avere tutt'altro tipo di sogni, però il messaggio di positività, di determinazione che dà, cioè è utile veramente a ognuno di noi a prescindere dalle passioni che può avere nella vita, quindi spero sarà così per chi lo leggerà. Tra l'altro anche dal mio libro lei farà un film, per cui prossimamente avremo anche questo. Siamo già accordate, esatto. E poi c'è ancora qualcuno che ha qualche curiosità da chiedere? No, paura. Nessuno, avete paura? Siete curiosi di leggerlo però il libro? Sì. Beh, possiamo dire che si trova alla libreria Ubic, sì, in via Grappoli, ovviamente, quindi lì si può andare tranquillamente a acquistarlo. Si trova ovviamente anche su Amazon. Online. Sia il sito dell'editore, che si chiama Bookabook, oppure su IBS o Amazon lo trovate, quindi è disponibile. Benissimo. Così ecco un altro. Si può comprare una copia anche qui oggi? Quelle sì, che ho, sì. Sì, sì, sì. Metto da parte. Benissimo. Sì, noi avevamo pensato anche di leggere qualche particina per così farci venire l'appetito e quindi lascio la parola se va. Io leggerei un capitolo, perché secondo me la cosa più chiara è sentire un po' quello che è il tono e lo stile di questo libro. Garantisco che è corto, ci metto poco, cioè, non sarà lungo. Vabbè, faccio una brevissima introduzione. Essendo un diario, la protagonista, ogni capitolo parte con una data. Quindi questo che leggerò si chiama 11 aprile, il magico o tragico mondo dei curricula. In questi giorni sto odiando un sacco di persone. Dietro al classico sorrisetto di circostanza, che per fortuna mi riesce bene, vorrei che un branco di squali bianchi li sbranasse tutti. Il motivo di codesto sincero amore è racchiuso in due frasi che puntualmente tali persone ripetono da quando ho abbandonato lo schiavismo del burbero per ritrovarmi socio del club del precariato italiano. La prima frase odiosa è: tanto col tuo curriculum un altro lavoro lo trovi subito, a cui molto spesso si accompagna l'altrettanto sopportabile asserzione: ma poi con il lingua che conosci non avrai problemi. E allora spiegatemi perché, dei 32 CV italiani spediti circa un mese fa, solo due società mi hanno risposto, e più o meno nella stessa maniera. Gentile Roberta, lei ha un curriculum davvero interessante, ma al momento non ci sono impieghi disponibili nella nostra azienda. Superata la crisi di pianto dovuta all'insignificante numero di risposte ricevuti, mi sono messa a riflettere sul concetto di CV interessante. Inizialmente quelle parole mi hanno fatto piacere, detta così vuol dire che se si libera qualche posizione, sicuramente sarò tra i primi a essere contattata. Poi però, ragionandoci un po' meglio, ho iniziato ad avere dei dubbi laceranti. E se lei ha un curriculum interessante, fosse l'equivalente di "è un tipo"? Avete presente quando cercate di accoppiare una vostra amica e nell'attimo fatidico in cui lui chiede come lei sia d'aspetto, voi rispondete prontamente "guarda, è proprio un tipo"? È dagli albori dell'umanità che tutti sanno il vero significato di quelle parole. È una vera racchia, ma per il resto è intelligente, simpatica e in gamba. Per forza, se non fosse almeno intelligente, simpatica e in gamba, fin dalla pubertà avrebbe tatuato sulla fronte "sfigata vita". Ecco, e se anche quel curriculum interessante fosse un modo per dire "ma che cesso di resoconto lavorativo ci hai spedito"? Del resto, per un rifiuto gentile, sarebbe bastato scrivere semplicemente "grazie per aver spedito il suo CV, ma al momento non abbiamo posizioni libere nella nostra azienda". Perché mai inserire anche quella dichiarazione diabolica? Delle due l'una: o il mio curriculum è veramente notevole, ma in Italia non serve un cazzo e sei comunque precario, oppure l'anatema lanciatomi dai conoscenti che ho fatalmente incontrato in questo periodo, con le loro maledette sentenze, ha proprio funzionato. E adesso posso aggiungere una terza frase odiosa e altre persone alla lista dei divorati dagli squali. Tra l'altro, tutto ciò mi rode ulteriormente, poiché da tempo mi considero la maga dei curricula. Ho affinato la tecnica compilando decine di CV miei e di amici vari, e le risposte alle chiamate dalle società sono sempre arrivate nel giro di una settimana, quantomeno fino all'attuale stato di non occupata. Ho esaminato modelli di curriculum in numerosi paesi, arrivando a condensare anni di studi ed esperienze in non più di una pagina e mezza. In pratica, ogni parola ne comunica almeno altre 10. Ad esempio, alla voce "lavori" ci sono pure quelli stagionali che ho svolto mentre ero ancora all'università. Ma nel contesto del CV il loro vero significato è "prego notare il mazzo che mi sono fatta lavorando e studiando allo stesso tempo, qui dovete apprezzare la mia voglia di fare". Per non parlare poi di 12 mesi di harakiri presso la casa di produzione del Burbero. Alla faccia sua e di pseudo regista, non solo ho elencato tutte, ma proprio tutte le mansioni svolte, oppure messo il loro vero significato, vale a dire "altro che gavetta, questo è stato puro sfruttamento, prego ammirate il mio stacanovismo e se proprio volete sfruttarmi anche voi, almeno pagatemi meglio". Messaggio subliminale o meno, forse la soluzione me l'ha data mio papà, matematico mancato che ragiona per algoritmi la maggior parte delle volte. Mentre io mi facevo queste seghe mentali a voce alta davanti a Dani e i miei genitori, con mamma e il mio amore che ascoltavano ormai agonizzanti, perché in effetti qualche volta sono un tantino logorroica, Papà buttava giù un paio di equazioni e poi proferiva la sua sentenza definitiva. Roby cara, se su 64 ricevi spediti via posta di mail ad aziende italiane, hai ricevuto solamente due risposte. Per l'algoritmo XYZR inserito nell'equazione della controequazione fratto la variabile matematica della sfiga, è molto probabile che la gente non legga più i curricula quando si dice che la matematica non ha un'opinione. Qualcuno vuole chiedere ancora qualcosa dopo questa lettura? Così si riprende. No, meglio di no. Ah, ecco qua. Eccola. No. Oggi Roberta ha scelto il look da brava ragazzina. Oggi ha scelto il look trendy. Da brava ragazza, dici no, oggi no. Oggi volevo essere un po' più fighetta, dai. Bene, allora se abbiamo concluso, io vi ringrazio della partecipazione e vi invito a leggere il libro e auguro, faccio i miei migliori auguri a Francesca per i nostri film. Per i nostri, esattamente, perché... Grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi.